Effetto Mondo. Eccoci qua, buongiorno a Giulia Crivelli. Buongiorno. Ciao Giulia. Allora, vogliamo agganciarci con le notizie che hai tu sui giornali alla questione degli incendi australiani, di cui abbiamo appena parlato con Vacchiano, questo ricercatore che ha cercato di fare un po' di chiarezza. Secondo me è riuscita anche a farla molto bene. Sì, è stato molto interessante. Sì. Sicuramente comprerò anche il suo libro. E, no, il tema naturalmente è trattato anche sui media australiani, forse non quanto io personalmente mi aspetterei. Per esempio su The Australian c'è più spazio per gli aggiornamenti sulla conferenza stampa di Trump e la caduta dell'aereo che ha fatto 176 vittime in Iraq, del Boeing, che non era però un 737 Max. Invece NT News parla di questo possibile ciclone che potrebbe arrivare sopra i cieli di Darwin sabato, quindi queste sarebbero veramente buone notizie. Poi c'è la cronaca sulla tragedia degli animali, si parla di, vabbè, le cifre ballano tra 500 milioni e 1 miliardo di animali uccisi in tutti questi tipi di foreste di cui ci parlava il ricercatore. A questi si aggiungono adesso, è un'ordinanza di uno stato del nord dell'Australia, l'abbattimento di 10.000 cammelli, che poi in Australia sono dromedari in realtà, perché sono talmente assetati che aggrediscono le comunità locali, e quindi a mali estremi rimedi, e perciò effettivamente saranno abbattuti. Tra l'altro sono animali sacri per gli aborigeni, quindi insomma è tutta una situazione. Appunto, si aggiungono storie incredibili a una storia eccezionale, come ci ha confermato il ricercatore. Senti Giulia, vuoi aggiornare gli ascoltatori? Io personalmente sulla vicenda della Royal Family non sono un appassionato, cioè è strano ai miei interessi, però comunque questa cosa che vuol mettersi a lavorare fa un po' sorridere, insomma, poi proprio di lavorare non si parla, credo, sì, si tratta qualcosa di simile. Ho visto che anche i giornali americani, la newsletter di Forbes di oggi ci dice: come si fa a far lavorare un principe? Che lavoro può fare un principe? Perché effettivamente probabilmente chiederà comunque una paghetta al papà, almeno questo è quello che già si ipotizza. Meghan, se tornasse a fare l'attrice a tempo pieno, bella e brava com'è, sicuramente delle buone entrate le avrebbe. Lui non si capisce bene, perché sì, ovviamente ha fatto ottime scuole, però l'unico lavoro vero che ha fatto è quello di soldato, quindi non credo che si metterà a fare il mercenario. Il problema da loro non sia, diciamo, gli introiti a fine mese, ma invece qual è secondo te il motivo che ha scatenato questa cosa? Io ti dico, a me Meghan è simpaticissima da sempre, e anche Harry, anche se non essendo britannica non sono un'appassionata di Royal Family. Comunque, prima segnalazione è che comunque la loro foto è su tutti i quotidiani, da quelli scandalistici a quelli più seri, Guardian compreso. La parola più usata è quit, cioè abbandonano, gettano la spugna. Io credo che, non so perché, penso alla teoria più semplice, cioè in effetti una vita sotto i riflettori poteva essere il sogno di Waity Katie, cioè di Kate, che ha sposato William e che sognava probabilmente di fare la principessa. Forse non era il sogno di Meghan, e quindi effettivamente poi quanto sia possibile trasformare la vita di un principe nella vita di un uomo normale non lo so, tant'è che tra l'altro la regina pare molto arrabbiata e ci sono i giornali scandalistici come il Sun che titolano a caratteri cubitali: non l'hanno neanche avvertita. Ma c'è stata infatti una mezza smentita poi sua di lei, che ha detto non è ancora deciso. La vice portavoce di Buckingham Palace ha detto: in realtà non sarà così semplice, questo è diventare royals part time, e anche dividere il proprio tempo tra la patria, il Regno Unito e il Canada o gli Stati Uniti, necessita di passi probabilmente anche costituzionali, cioè c'è tutto, abbiamo visto quanta formalità c'è per esempio quando si insedia un nuovo parlamento, quindi se tanto mi dà tanto, giustamente la regina ha detto va bene, forse posso anche capire, anche se avrei apprezzato che me l'aveste anticipato, però adesso la formalizziamo bene questa cosa, perché così no. Senti, vogliamo introdurre l'argomento Francia con le parole del primo ministro? Certo, certo. Sentiamo. Uno sort en avançant. Which I would add was probably the worst briefing. Questo non è il primo ministro francese, non credo. Era quello di prima, che però è saltato. Sì, vediamo un po' se ce l'abbiamo. Eccolo. Uno sort en avançant et en discutant. En avançant, c'est-à-dire en rappelant la détermination qui est celle du gouvernement et de la majorité a faire cette réforme universelle, sì, qui est une réforme. Et il povero, dico povero perché insomma sappiamo che la riforma delle pensioni era un cavallo di battaglia del programma elettorale di Macron, è stato eletto anche su questo grande sogno di finalmente fare una riforma che è stata, viene promessa da tantissimi anni, poi però a fare il lavoro sporco, diciamo così, Macron manda Edouard Philippe, il primo ministro, che qui parlava a una radio francese e diceva: certo che a questo punto dobbiamo riaprire il dialogo. Tra l'altro prima la giornalista ricordava che a questo punto è il più lungo sciopero da quelli del 95 che portarono poi alle dimissioni dell'allora primo ministro. Non si vedevano mobilitazioni così dal 1968. Tra l'altro oggi e domani sono previste maxi manifestazioni anche a Parigi, speriamo senza violenze. Però Philippe dice sostanzialmente: io sono convintissimo che questa è una riforma giusta, che porterà più giustizia a tutti. I francesi non sembrano capirlo e a questo punto torniamo al tavolo. Però io non sono disposto, lo dice abbastanza chiaramente, a cambiare radicalmente la riforma, perché il suo spirito è proprio quello di, una volta per tutte, togliere i privilegi. Finirà che ne pagherà il conto lui, perché se poi qualcuno dovrà fare un passo indietro non sarà certo Macron, ma potrebbe essere il classico premio vittima sacrificale, data in premio appunto alle masse, al pubblico. Dove ci porti, Giulia? Restiamo un attimo solo in Francia, perché comunque su molti giornali ci sono. Il Wall Street Journal fa un po' come ha fatto il Sole 24 Ore oggi, cioè mette 5 foto diverse di Gosne. Sì. Le Figarone mette una sola, tratta dalla conferenza scattata alla conferenza stampa che ha tenuto ieri l'ex numero uno di Renault Nissan in Libano, e dice: il contrattacco, questo è il titolo, molto divertente l'editoriale che parla di un nuovo conte di Montecristo, perché dicono così? Simbolo dell'uomo che medita la vendetta, tutto sommato. Effettivamente i lunghi mesi di arresti domiciliari, prima di carcere poi di arresti domiciliari, e secondo appunto questo editoriale Gosne avrebbe meditato prima di tutto la sua fuga e poi la vendetta, nel senso che lo avrete credo sentito, lui dice: io non sto sfuggendo alla giustizia, sto sfuggendo all'ingiustizia, tutto quello che i giapponesi dicono di me è falso, notarsi che c'è fior di prove, ma vabbè, lui dice che sono tutte inventate, vittima di un mega maxi gigantesco complotto, e che dimostrerà la sua innocenza. Allora, mi segnali, credo sulla stampa tedesca, attenzione per le mosse della Turchia che sta diventando protagonista in Libia. Sì. E come sappiamo in Germania c'è sempre un'attenzione particolare visto quanti turchi ci sono nel paese. Esatto, i figli di cosiddetti Gastarbeiter, cioè appunto turchi di prima, figli di turchi di prima generazione o già comunque cittadini tedeschi, ma che comunque hanno vivono in famiglie dove magari si parla anche turco, e i giornali tedeschi sono, ma questo già nei mesi scorsi, attentissimi all'evolversi della crisi in Medio Oriente, in particolare a questo ruolo che Erdogan, lo ha certificato ieri l'incontro con Putin, sta dimostrando di poter ancora svolgere, siccome la figura evidentemente dell'uomo forte fa molta presa sui giovani, e ci sono anche giovani radicalizzati anche in Germania di cui si ha molta paura, e questo nuovo impulso che sta dando Erdogan alla sua immagine di uomo forte che impone il suo pensiero e il suo agire alla comunità internazionale, alcuni commentatori dicono: stiamo attenti, perché proprio appunto sembra l'uomo forte che in un momento di crisi e di incertezza è una figura ideale da seguire. So, abbiamo ancora pochissimi secondi, però c'è ancora qualche segnalazione? No, sì, volevo adesso, magari non sentiamo l'audio, ma ce ne saranno chissà quanti nei prossimi giorni. Sì. Che negli Stati Uniti, e questa è una notizia che c'è veramente su tutti i giornali, fa molto effetto. Ieri finalmente Trump ha fatto questo briefing di 75 minuti per spiegare nei dettagli l'uccisione di Soleimani, e due deputati repubblicani, uno in particolare senatore dello Utah, ha detto: io non ho mai sentito un briefing così deludente e scarso in 9 anni di servizio al Senato. Quindi comincia a esserci veramente delle voci che si alzano contro questo atteggiamento di Trump, che si rifiuta ancora, l'ho detto chiaramente anche ieri, di chiedere eventualmente al Congresso di discutere in Parlamento, quindi il Congresso e il Parlamento americano, eventuali altre azioni. Va bene, materiale per noi anche domani, grazie Giulia Crivelli, l'appuntamento appunto è per domani. Valeria Bernardi in regia, non Andrea Roccabella, oggi non c'è, e Jacopo De Franchi in redazione. Noi ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento di GR24.